colto intraprendente, impegnato nel sociale, si fa l'arco tra la gente, lo studente intellettuale, sa che il mondo non capisce cosa conta nella vita, lui lo sa e lo custodisce fra le strisce di una matita. Urla e sbraita fra la gente, ma ragiona a voce bassa e non gliene frega niente del ridicolo che indossa quando riempie smaliziato di boiate un taccuino dissertando sullo stato ormai erudito del cappuccino. Lui sì, lui lo sa già cosa farà, lui da bravo intellettuale penserà ed erudirà. Purtroppo non avrà tempo da dedicare alla prassi che richiede un ideale intellettuale. Legge solo grandi classici da Kafka a Dostoevsky, non si mischia coi politici, seppure comunisti, superiore al vile status di occuparsi della cosa, si sublima in un conatus, beve un Petrus, scrive una prosa. E tutti ne rimangono incantati, financo gli animali e un San Francesco in mezzo ai prati, è contro la violenza, ma di lingua può ferire, ha una mente molto acuta e originale. L'intellettuale, l'intellettuale, l'intellettuale, l'intellettuale.